24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno, buongiorno, eccoci cari ascoltatori, le 7:21 minuti, riparte una settimana di 24 mattino, siamo in diretta, siamo anche su Twitter, @24mattino, ci sono anche io, @AlinoMilan, saluto anche il nostro Filippo Aureggi in regia, sarà con noi forse due settimane, chi lo sa, fa una faccia come dire, e che ne so io, che sarà di me domani. Allora, noi siamo qua. Oggi parleremo ancora di G8 a Genova, 11 anni dopo, davvero una pagina con la quale l'Italia non riesce a fare e a chiudere i conti. Avete sentito, sono scomparsi nel nulla due delle persone condannate in via definitiva venerdì scorso dalla Cassazione. Stavolta si giudicavano gli autori delle devastazioni e saccheggi di Genova, dopo che una settimana fa invece erano stati giudicati i poliziotti condannati per l'irruzione nella scuola Diaz. Di questo parleremo tutto più avanti, però dalle 8:20, allora andiamo a vedere che cosa ci propongono intanto i quotidiani in edicola. È lunedì 16 luglio, uno sguardo ai titoli, l'edizione del Sole 24 Ore del lunedì fa un po' i conti sui soldi spesi in manovre nell'ultima legislatura. Il conto delle manovre, 330 miliardi. Questo sotto la dicitura 4 anni di crisi è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera, il piano dei beni in vendita, dopo l'intervista di ieri del direttore De Bortoli al ministro dell'economia Grilli, ecco che il Corriere fa un seguito, diciamo, di quello che ha annunciato ieri Grilli, vale a dire la dismissione dei beni pubblici per 15-20 miliardi. Repubblica, crisi, Merkel avvisa l'Europa, niente aiuti senza controlli, e anche la stampa apre sull'Europa, l'Unione Europea frena sul salva spread. Il Giornale invece su Berlusconi che torna, lo spirito del 94, ripartiamo da meno tasse. Il Messaggero, scudo, Merkel non cede, mentre invece l'Unità attacca Beppe Grillo. Grillo come Berlusconi, l'accusa di aver attaccato Rosi Bindi con una battutaccia. La battuta più o meno suona così: Rosi Bindi, problemi con una relazione, non li ha mai avuti. La vicenda è legata alla polemica sui matrimoni omosessuali che ha diviso il Partito Democratico, ma poi la vedremo. Prima voglio partire da che cosa? Beh, ricordate che in Italia si è tentato di fissare, a volte ritornano, si è tentato, ripeto, di fissare un tetto. Lo aveva fatto Monti nel decreto Salva Italia, con i tributi, gli stipendi massimi ai dirigenti pubblici, ai manager pubblici, fissandoli in circa 294.000 euro lordi l'anno, vale a dire la paga del primo presidente di Corte di Cassazione. Vi ricordate questa vicenda? Ebbene, a volte ritornano, perché oggi Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, pagina 5, fa sapere che il tetto ai manager non arriva mai. Cioè, si fissano le cose per decreto, ve le spacciano come cose già fissate e definitive, e poi, come al solito in Italia, ci mancano i decreti attuativi, manca l'attuazione delle cose, quindi i titoli vanno a farsi benedire. Il tetto ai manager che non arriva mai. Il decreto per le società non quotate sarebbe pronto, ma non si vede. Così Sergio Rizzo sul Corriere della Sera. C'è la foto tra l'altro dell'amministratore delegato delle Ferrovie Mauretti, l'amministratore delegato delle Poste Sarmi, l'amministratore delegato di Consap Mauro Masi, fuoriuscito dalla RAI, l'amministratore delegato del Poligrafico dello Stato Maurizio Prato, il presidente dell'INPS Mastrapasqua, tutte persone che dovrebbero incorrere in questo tetto. Ma, spiega Sergio Rizzo, le cose si sono rivelate più complicate del previsto, ragion per cui il governo aveva prorogato di 2 mesi la scadenza, spostandola al 31 maggio scorso per fare un decreto attuativo, ma anche quella data è trascorsa invano. Il motivo? Problemi tecnici legati alla complessità della materia. Immaginiamo la gamma dei travagli interiori. Davvero lo stipendio dell'amministratore delegato delle Ferrovie Moretti, 985.000 euro nel 2010, secondo la Corte dei Conti, è troppo elevato? E 456.000 euro per gestire la Consap, quanti ne spettano a Mauro Masi? Sono davvero troppi? E sotto la tagliola deve finire anche l'amministratore delegato delle Poste, Sarmi, accreditato di 1,5 milioni l'anno, nonostante l'azienda sia controllata in piccola parte anche dalle fondazioni bancarie, azioniste di minoranza della Cassa Depositi e Prestiti. E come regolarsi nei casi come quello dell'ex ragioniere generale dello Stato, Monorchio, o del presidente dell'INPS, Mastrapasqua, che cumulano diversi incarichi in società statali, alcune dei quali particolarmente lucrosi? Questo per dire le enormi difficoltà a cui è andato sicuramente incontro chi ha avuto il poco invidiabile compito di risolvere la faccenda. Risultato: la faccenda non è risolta. Tra l'altro oggi Sergio Rizzo fa in qualche modo gli straordinari, nel senso che sul inserto del Corriere Economia, in prima pagina, potete trovare un altro grande classico di cui qua a volte abbiamo parlato, la legge Mancia. Cari ascoltatori, ve la ricordate? Quella per cui ogni anno i deputati hanno a disposizione una certa somma da distribuire poi nei collegi elettorali. L'ultima è stata del 12 novembre 2011, cioè pochi giorni prima che il governo Monti giurasse davanti a Napolitano, e Sergio Rizzo nella prima pagina del Corriere Economia fa sapere: mancia assicurata, tanto paghiamo noi. Voglio darvi l'elenco di alcune iniziative che sono state finanziate con questa legge Mancia. Alcune sono meritorie, Non so, hanno comprato un'ambulanza all'Unione Sportiva Primavera Rugby di Monza, di Roma, scusate, non so perché ho detto Monza, di Roma. E poi hanno comprato alcuni pianoforti a coda all'Orchestra Città Aperta, che li aveva distrutti per il terremoto dell'Aquila. Ma abbiamo anche, udite udite, 35.000 euro al comune di Terlizzi in provincia di Bari per la rassegna internazionale dell'arpa celtica, una cosa più da Padania, oserei dire, più che da comune di Terlizzi. L'arpa celtica, la rassegna internazionale. Poi vabbè, tantissime parrocchie più o meno grandi. Poi ci sono anche 100.000 euro per l'adeguamento scuola di volo finalizzato ai corsi professionali di pilotaggio all'Aeroclub Olbia Costa Smeralda. Va bene, tutti a fare i corsi di volo lì. Oppure 100.000 euro del comune di Tolmezzo in provincia di Udine per l'ampliamento dello skate park, un'iniziativa sicuramente apprezzata immagino dai giovani, ma pagata un po' da tutta Italia con questa legge Mancia. Mancia assicurata, tanto paghiamo noi, sulla prima del Corriere Economia. A proposito di tagli, di sprechi, il Messaggero fa sapere in prima pagina che sono ormai arrivate a 200.000 le mail dei cittadini italiani per suggerire al governo Monti cosa fare. Vi ricordate? Caro Monti, caro governo, taglia qui. Ebbene, 200.000, Diodato Pirone, scusate, a prima pagina del Messaggero, e poi continua a pagina 5, racconta la cronistoria di queste 200.000 mail, via le auto blu, spegnete le luci di notte, alcuni consigli, vabbè, molto all'italiana, racconta Pirone. Uno è questo, per esempio: perché lo Stato non scarica gratuitamente il software per i computer invece di pagarlo? Non so, sarà stato un qualche hacker o qualcuno che lo fa abitualmente, ma sappiate che non è che lo Stato può piratare il software o usarlo gratuitamente e non pagarlo. Però c'è anche questo tra i consigli arrivati. E se no, il gran classico, quello di tagliare le auto blu. Il 36,5% delle 200.000 segnalazioni riguardano le auto blu. Il 32% la riduzione di consigli per come ridurre gli sprechi nella pubblica amministrazione. Il 14,6% sulla sanità. C'è anche un 6,5% di consigli sulle luci o sul riscaldamento accesi inutilmente. Gli sprechi così. Comunque, car sharing, luci spente di notte, nelle mail, le idee per risparmiare le trovate raccolte sul Messaggero. Oh, nel giro di 3 minuti mi sono arrivati 25 messaggi di voi ascoltatori al 349 238 6666 che mi dite Ma forse il suggerimento di scaricare il software si riferiva al software quello libero e gratuito, no? Quello a disposizione, open source, che già molte amministrazioni, ma c'è chi mi dà anche dell'ignorante, sono ignorantone. Non lo so, la mail sul messaggero non è pubblicata, però l'articolista che ha scritto l'articolo, il giornalista, diceva che si riferiva a, insomma, qualche consiglio poco ortodosso e poco legale. Se già l'amministrazione pubblica, come succede in molti comuni, anche in stati mondiali, usa l'open source, allora non ci sarebbe bisogno di consigliarlo, no? Comunque, sta di fatto, sveleremo questo mistero sui consigli al governo Monti, se erano consigli di diventare dei pirati online oppure semplicemente di utilizzare l'open source. Lo vedremo. Intanto, cari ascoltatori, in Europa, e questa è l'apertura di molti giornali, c'è ancora un'Angela Merkel molto combattiva, perché l'Eurogruppo di fine settimana dovrà decidere che cosa? Due cose importanti. Il primo, intanto, gli aiuti alle banche spagnole, 30 miliardi subito è la promessa data, e si arriverà fino a 100 miliardi, perché per il momento non si capisce di quanti liquidi abbiano bisogno le banche spagnole per essere ricapitalizzate. E un altro tema è quello sul quale Angela Merkel pare molto combattiva, è quello sullo scudo dell'euro, l'utilizzo del fondo salva stati per gli stati virtuosi per intervenire in caso di spread che comincia a salire. È un po' la conquista che è stata all'ultimo Consiglio europeo del governo italiano del premier Mario Monti, sul quale però ieri Angela Merkel ha fatto un'intervista, una dichiarazione nella quale ha detto: qualunque tentativo di dire siamo solidali ma senza controllare nulla, senza contropartita, non avrà alcuna possibilità con me o con la Germania. Così la cancelliera tedesca, in un'intervista televisiva, non ha specificato a cosa si riferisse, fa sapere per esempio Stefania Tamburello sul Corriere della Sera a pagina 4, ma certo si può presumere che si riferisse a questo fondo salva stati, al meccanismo del salvataggio, senza chiedere appunto rigore, il rigore a cui la Germania fa spesso riferimento. Scudo euro, niente solidarietà, senza controlli, queste le condizioni della Merkel sull'Europa, e così anche sulla stampa: l'Europa frena sul salva spread. A pagina 3 Marco Zatterin: gli ultimi ritocchi allo scudo salva spread caro a Mario Monti per ora possono attendere. Jean-Claude Juncker, il presidente dell'Eurogruppo, intende chiudere la stagione degli incontri al vertice per i ministri economici dell'Eurozona con l'appuntamento in programma venerdì. Sta anche pensando di non invitare fisicamente i colleghi di Bruxelles, vuol fare una rapida teleconferenza, ma certo su questo pesa appunto ciò che ha detto Angela Merkel: non vuole aprire senza il controllo e il rigore. Tra l'altro, su questo vi segnalo anche un'intervista a Giuseppe Vegas, il presidente della Consob. Siamo sempre sulla stampa, a pagina 5, sul meccanismo anti-spread proposto dal governo Monti. Dice Vegas: mi convince, sì, tutto quello che può essere fatto per neutralizzare gli effetti negativi dei differenziali BTP-Bund è utile. Resta il fatto che la BCE risente molto dei limiti del suo statuto, e finché non avrà poteri simili a banche centrali come quella inglese, giapponese o americana, sarà difficile fronteggiare gli attacchi speculativi. Quando la Fed preannuncia un intervento di politica monetaria non si conosce mai il suo ammontare, e questo basta a spuntare le armi della speculazione. Nel caso dell'Europa il gioco è più semplice e crudele. Tra l'altro Vegas contesta anche l'agenzia di rating Moody's, che ha nuovamente declassato l'Italia. Da luglio dell'anno scorso, fra banche e debiti sovrani, Moody's ha prodotto sull'Italia 27 giudizi, dice Vegas. Questa volta lo ha fatto a poche ore da un'importante emissione di titoli di Stato a 3 anni. Può essersi trattato di una coincidenza, ma quando le coincidenze si moltiplicano, i sospetti diventano leciti. L'intervista è di Alessandro Barbera, la potete trovare a pagina 5 completa della stampa, al presidente della Consob Giuseppe Vegas. Mentre sul Sole 24 Ore c'è questa cifra, è l'apertura del Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì: 330 miliardi, per la precisione in realtà sarebbero 329,5 miliardi il calcolo preciso. È il conto delle manovre, un conto fatto dal Sole 24 Ore, delle manovre dell'ultima legislatura. I compiti a casa fatti nell'ultima legislatura dall'Italia impegnata nella battaglia contro la crisi economica e del debito valgono 330 miliardi di euro. Tanto è stato chiesto dalle manovre degli ultimi 4 anni a cittadini e imprese sotto forma di aumenti di entrate o tagli di spesa per la macchina pubblica. È una cifra frutto della somma dei numeri scritti in ogni intervento anticrisi che non indica gli effetti complessivi sull'indebitamento netto del paese, ma rappresenta il contributo effettivo accumulato anno per anno dal sistema paese. Naturalmente con un appendice che arriva al 2014, come previsto dagli ultimi interventi. Tutti i calcoli sono fatti da Gianni Trovati nell'articolo che trovate un'intera pagina, a pagina 3, 4 anni di manovre. Fisco piglia tutto, le maggiori entrate rappresentano il 55% della correzione complessiva pari a 330 miliardi. Questo è il conto complessivo delle 10 principali manovre anticrisi varate dal giugno 2008 a oggi dai governi, prima quello di Silvio Berlusconi e poi quello di Mario Monti. Un conteggio, il calcolo, insomma tutto quello che poi potete approfondire a partire da questa cifra davvero impressionante, 330 miliardi. Veniamo invece, questo per quel che riguarda la finanza, veniamo alla politica. La politica sui giornali la trovate con i due principali partiti, il Partito Democratico e il Popolo della Libertà, o meglio, poi se esisterà ancora, perché pare ormai si ritorni a Forza Italia. Sono ad arrovellarsi su due grandi temi. Allora, il Partito Democratico ha avuto un'assemblea di fine settimana scorsa in cui tutti i giornali raccontano c'è stata una spaccatura sul tema delle nozze gay, i matrimoni omosessuali. Alcuni delegati hanno in maniera sdegnata anche gettato la tessera del Partito Democratico perché una mozione loro non è stata messa ai voti sulle nozze omosessuali. Il presidente del Partito Democratico Rosi Bindi respinge le accuse dicendo è stata messa una mozione che prevede un'apertura su questo fronte e quindi non si poteva mettere una mozione che prevedesse il contrario. Insomma, c'è stata una gran bagarre, molti delegati, rappresentanti delle associazioni omosessuali si sono ribellati, hanno appunto gettato la tessera. Per esempio, racconta il Corriere della Sera, uno su tutti, Enrico Fusco, che è rappresentante, credo, della Puglia, delegato gay barese. Enrico Fusco ha restituito la tessera in maniera molto arrabbiata. È successo che la Bindi ha gestito con protervia l'assemblea. Insomma, tante, tante polemiche. Rosi Bindi risponde in un'intervista al Corriere della Sera data a Monica Guerzoni. Io non ho offeso mai nessuno. Nel documento non parliamo solo di diritti agli omosessuali, ma di bioetica, ricerca, uguaglianza, il confine della vita e della morte. Quando un'assemblea ha appena approvato un documento, non mette in votazione il suo contrario. Funzionano così tutti i parlamenti e tutte le assemblee deliberative. Questa per respingere la critica del perché non abbia messo appunto ai voti questo documento. Tra l'altro su questo tema ci sono molte interviste. Repubblica intervista il cattolico del Partito Democratico Giuseppe Fioroni, che già era stato pungolato da molti anche sulla rete quando aveva detto no ai matrimoni omosessuali, e lui ribadisce: sono stato preso d'assalto su Twitter con insulti, contumelie per aver detto che sono contrario ai matrimoni omosessuali. Ma sabato il partito ha assunto una decisione a stragrande maggioranza con solo 38 contrari che va verso il riconoscimento dei diritti e dà l'alt al matrimonio gay equiparato al matrimonio come lo intende la Costituzione, a fondamento della famiglia. Questo fa fare un passo avanti ai diritti e blocca le speculazioni e le strumentalizzazioni. Dall'altra parte Repubblica gli contrappone l'intervista a Ignazio Marino, sempre del Partito Democratico, che invece dice: io sono stato negli Stati Uniti, sono cresciuto lì, mia figlia è andata a scuola a Filadelfia, ha avuto compagni di classe che vivevano in famiglie omosessuali. Io lo dico con umiltà, un tempo avrei risposto in un altro modo, ma mi sono reso conto che quegli adolescenti avevano una vita felice, con le stesse problematiche e gioie di chi cresce in famiglie eterosessuali. E sulle unioni omosex, dice Marino, noi scriviamo che le coppie etero e quelle omosessuali devono avere gli stessi diritti. Non mi pare così rivoluzionario sostenere che tutti devono essere uguali, soprattutto nell'anniversario della presa della Bastiglia. Insomma, su questo tema si è molto spaccato il Partito Democratico e tra l'altro c'è da registrare l'intervento di Beppe Grillo, che si è detto a favore dei matrimoni omosessuali dopo aver fatto tra l'altro anche battute molto grette nei confronti degli omosessuali in passato, per esempio di Vendola. E Beppe Grillo ieri ha fatto una battuta per la quale l'Unità lo mette in prima pagina così: Grillo come Berlusconi, la battuta è su Rosi Bindi, problemi di convivenza con il vero amore non ne ha probabilmente mai avuti. Questa è la visione nel peggior stile berlusconiano, fa sapere l'Unità con Maria Zegarelli a pagina 4, di Beppe Grillo che lancia insulti al presidente dei democratici Rosi Bindi il giorno dopo l'Assemblea Nazionale del PD. Rosi Bindi, problemi di convivenza con il vero amore non ne ha probabilmente mai avuti. Così Beppe Grillo. E invece Berlusconi? Beh, Berlusconi e il partito il Popolo della Libertà si arrovella su due temi. Torna Berlusconi e soprattutto Nicol Minetti. Si deve dimettere Nicol Minetti oppure no? Per Alfano anche assolutamente sì. Non c'è un motivo specifico che ha fatto cambiare idea, ma sì, deve dimettersi. È stato perentorio anche ieri Angelino Alfano in un'intervista a Sky. Ha detto si deve dimettere sì. Subito, domani, cioè oggi, e poi in realtà forse domani, perché domani c'è il Consiglio regionale della Lombardia. I giornali si interrogano tutti su questo. Per esempio Repubblica, le donne del partito si dividono, la Gelmini difende Nicole, lo trovate a pagina 8. Ora è lei che appare una vittima. La Gelmini dice non sono d'accordo con Alfano, oggi appare più vittima che responsabile di quel che è accaduto. Mentre il Corriere della Sera, sotto l'articolo di un'intera pagina, prende intere pagine questo dibattito, intere pagine sui giornali, l'out out di Alfano a Minetti, subito via dalla regione, pagina 8, e sotto c'è un articolo di Marco Cremonesi, Nicole tratta ma è già pronta a lasciare, a chi chiede qualcosa dice ci vediamo martedì in aula. Il tema per esempio su cui si interrogano è quello del vitalizio, perché dovesse arrivare fino a ottobre avrebbe un vitalizio come ex consigliere regionale della regione di Lombardia, un vitalizio avrebbe Nicol Minetti come tutti quelli che sono stati eletti in consiglio regionale, per cui pare, secondo il Corriere della Sera, che starebbe trattando un vitalizio in qualche modo privato dal partito. Cioè io mi dimetto prima, però garantitemi un vitalizio, che poi credo siano 1.000 euro al mese di vitalizio per chi fa una legislatura alla regione Lombardia. C'è da dire che, non so, la deputata Barbara Saltamartini, per quello vengono i dubbi a molti, la deputata Barbara Saltamartini per esempio ha detto si deve dimettere perché non ha preso i voti ed è dunque è giusto che chieda le dimissioni, ma in realtà non ha preso voti perché questo prevede la legge elettorale, come tutti i parlamentari, dovremmo far dimettere tutti i parlamentari attuali, visto che non hanno preso voti neanche loro, o comunque tutti i consiglieri regionali non hanno preso voti e dunque secondo questo principio si dovrebbero dimettere tutti. Rispunta Emilio Fede invece, fa una serie di interviste, una al Secolo XIX, dice a pagina 5, intervistato da Sonia Oranges, è una crocifissione, io le ho detto di parlare a Silvio, l'ho vista a cena e le ho detto vai ad Arcore sabato, Berlusconi sarà sicuramente lì, gli dici che ti dimetti così risolvi un suo e un tuo problema. Sa cosa penso io? Nessuno convince Minetti a dimettersi, è Minetti stessa che convince se stessa. E poi su Alfano dice Fede non mi faccia fare i nomi e cognomi di quelli che stanno attaccando la Minetti, non condivido nessuno di loro, possibile che Minetti sia il male dei mali? Come dire che Fede porta una valigia carica di banconote. Insomma, è sempre autoironico. Emilio Fede, l'intervista la trovate sul Secolo XIX. nono a pagina 5. In realtà poi c'è un tema, è un dibattito più, più alto, se volete, sul ritorno di Silvio Berlusconi, che oggi tra l'altro ha rilasciato una intervista che è pubblicata oggi dal tedesco Bild. E Berlusconi che oggi riunirà anche una think tank economica a Gernetto, a Villa Gernetto in Brianza. Il Cavaliere punta sui Nobel per tagliare le tasse. Così trovate a pagina 3 sul giornale. Oggi Berlusconi sarà a Villa Gernetto con gli economisti liberali guidati da Antonio Martino, suo ex ministro, numero 2, fondatore di Forza Italia insieme a Berlusconi. E poi l'annuncio del giornale: in campo anche il figlio Luigi, sarà lui il futuro della dinastia Berlusconi in politica, Luigi Berlusconi, così annuncia il giornale. Mentre sulla Repubblica va registrata un'intervista a Gianni Alemanno, sindaco di Roma, che invece è molto critico. Senta, un anno fa noi abbiamo eletto Alfano segretario con la chiara indicazione di una successione a Berlusconi, poi un mese fa c'è stato un ufficio di presidenza in cui ha deciso a fare le primarie. Oggi non possiamo dire scusate, abbiamo scherzato, torna Berlusconi. Così diventa tutto incomprensibile. Un Alemanno che dice: un ritorno al passato non è digeribile, Silvio ora deve accettare le primarie. Questo è il senso dell'intervista al sindaco di Roma che trovate intervistato da Francesco Bei su Repubblica a pagina 9. Segnalazioni veloci sul Sole 24 Ore, imprescindibile per chi vuole sapere come è lo stato dell'arte dell'università italiana, la classifica annuale. Politecnici leader dell'eccellenza tra le università, le classifiche del Sole 24 Ore, la classifica annuale appunto delle università. I politecnici sono al top, Milano e Torino non hanno rivali quando si misurano i risultati delle università attraverso alcuni parametri, la struttura, l'efficienza della didattica, il successo occupazionale, i fondi per la ricerca. In genere tra le private vince la Bocconi, davanti al San Raffaele e la LUIS, malissimo il Sud, c'è un divario, uno spread, per utilizzare questo termine molto in voga, tra le università del Nord e quelle del Sud. Ma a pagina 8 e 9 con tutti i dettagli trovate le classifiche delle università. Noi ci occuperemo di G8. La notizia del giorno è che sono spariti nel nulla due dei no global arrestati, condannati in via definitiva venerdì dalla Cassazione per il G8, devono scontare dai 15 ai 10 anni, sono scomparsi. Gli avvocati dicono non ne sappiamo nulla e di questo parleremo, di una vicenda a una settimana di distanza dalla Diaz che non ha, con la quale davvero non abbiamo mai più chiuso i conti, 11 anni dopo. Se volete, a Milano sappiate che un negozio su tre non rilascia scontrini. Questo è il titolo di Repubblica, pagina 16, questo almeno nei controlli della Guardia di Finanza del weekend. Pizzicato anche il ristorante Il Fingers di Clarence Seedorf, l'ex calciatore del Milan. Cene senza ricevute, il locale di Seedorf nel mirino del fisco. A pagina 21 del Corriere della Sera. Allora, oggi sul Corriere della Sera il vicepresidente di Confindustria Ivan Lobello è stato per anni anche presidente di Confindustria Sicilia, fa una dura intervista a dire basta l'autonomia della Sicilia, Monti metta mano ai conti della Sicilia e l'autonomia. Nei giorni scorsi aveva fatto scalpore un'inchiesta di Panorama che ha fatto sapere ci sono 28.000 forestali in tutta la Sicilia, proporzionalmente rispetto alle altre regioni un numero incredibile. Io voglio salutare il sindaco di Godrano, buongiorno Matteo Cannella, buongiorno. Buongiorno, benvenuti. Siamo in provincia di Palermo. In provincia di Palermo. Senta, sindaco, abbiamo letto che a Godrano ci sono 190 persone a libro paga del corpo forestale su 1.096 abitanti, il 17%, è così davvero? Guardi, leggevo pure io stamattina da una chiave al Panorama su questa intervista fatta. Ovviamente dico la spesa per le retribuite ai forestali è assai inferiore a quella di cui si dice, poi dico in questi giorni purtroppo sono circolate notizie e cifre nefatte, ovviamente, perché giustamente i lavoratori forestali, di cui io sono anche un lavoratore forestale, quindi me ne vanto, sono fiero. Attenzione, no, ecco, lei Sindaco, aspetti un attimo, io non sento praticamente niente di quello che dice, non so se la linea telefonica è quella che è, vediamo se si mette in un punto, purtroppo abbiamo questi 5 minuti, non possiamo fare altrimenti. Lei è un forestale, anche lei, è un sindaco, esatto, ed sì, è forestale, anche il suo vice sindaco mi risulta. Sì, ovviamente mi chiedendo un paese all'interno di una grande riserva naturale orientata, che è quella del Bosco della Sicilia, una delle più belle riserve della Sicilia occidentale, quindi ci troviamo in un'ora più immersa, una grande vocazione naturalistica, di cui facciamo pregio, siamo oggetto di visite guidate e di tanti turisti, e quindi lavoriamo per la maggior parte tutti alla foresta. Ho capito. Ma, questo, dico, Ma siete troppi però, sindaco, siete troppi, questo è, cioè non è che nessuno dice che non ci sia bisogno dei forestali, ma 28.000 forestali, perché mi risulta anche che questa da sua dichiarazione, praticamente il 90% degli abitanti di Godrano, di Riffo di Raffa, vive per grazie allo stipendio del corpo forestale. Quindi siamo 1200 anima, ma di questo dico ne andiamo fieri, perché questa è stata una tradizione tramandata di padre, nonni, in figli, praticamente la forestale è sorta con i nostri nonni, è stata curata, è stata quindi garantita il diritto al lavoro. Ovviamente dico le cifre sono quelle, però la spesa per pagare oggi quasi 25.000 forestali in tutta la Sicilia non è di 680 milioni, ma bensì di quasi 350 milioni, questi sono dati, di cui 240 milioni dell'azienda forestale e 120 dall'ispettorato. Poi a parte questo dico, la Sicilia ha delle caratteristiche diverse rispetto alle altre regioni d'Italia. Basta dire che caratteristiche... Scusi, sindaco, che caratteristiche... Io non sento niente, ragazzi, non ho detto... Allora, mettiamo giù la linea col sindaco Cannella, perché mi sto anche innervosendo. Mi succede raramente, ma adesso mi sto anche un po' incazzando. Proviamo a richiamarlo, abbiamo solo 3 minuti, perché questo è lo spazio che ci è concesso. Vediamo se la linea telefonica, che finora era perfetta, funziona bene. Perché giustamente mandano ascoltatori messaggi dicendo che non si sente, non si capisce nulla di quello che dice il sindaco Cannella. Non che il sindaco Cannella non parli in italiano, ma la linea telefonica è quella che è. Vediamo di ripristinarla la linea, se riusciamo, altrimenti lo abbandoniamo e diciamo andiamo in pubblicità, che non manca mai, e poi recupereremo magari nei prossimi giorni il sindaco di Godrano. Facciamo così? La linea non prende? Basta, andiamo in pubblicità. Lo recuperiamo nei prossimi giorni. Tra poco parleremo invece del G8 di Genova, con le polemiche che ci sono state a 11 anni di distanza di questa vicenda, con la quale davvero l'Italia non riesce a pacificare nulla. Il sindaco Cannella è una promessa, lo richiameremo domani se ripristineremo una linea telefonica semidecente. Il G8 invece di Genova, 11 anni dopo, che cosa è successo? Venerdì c'è stata una sentenza definitiva alla Cassazione, nella quale stavolta sono andati in condanne definitive gli autori delle devastazioni e i saccheggi di Genova. Due di queste persone condannate sono sparite nel nulla, e la sentenza arriva una settimana dopo dall'altra sentenza che fece anche scalpore, vale a dire l'irruzione alla scuola Diaz con i poliziotti condannati, e i poliziotti condannati in via definitiva con anche posizioni apicali della Polizia di Stato che sono state decapitate. Vogliamo parlare del G8, ancora il G8 di Genova, sono passati 11 anni e le polemiche non si placano davvero. Venerdì scorso c'è stata la sentenza definitiva della Cassazione che ha mandato condannati in via definitiva 5 dei 10 imputati che erano imputati per le devastazioni e saccheggi di quel G8 di Genova nel luglio del 2001. Le pene più pesanti sono andate a due persone, Francesco Puglisi, 15 anni, e Vincenzo Vecchi, di 13 anni. Nel frattempo queste due persone sono scomparse. Per loro è previsto un mandato di cattura, a questo punto immagino anche internazionale, il timore che siano anche fuggiti all'estero. I condannati sono dati alla fuga, così titola il giornale, per esempio oggi, anche il Secolo XIX, spariti nel nulla, due no global condannati per il G8. Ma le polemiche, perché questa sentenza di venerdì viene una settimana esatta dopo l'altra sentenza che ha suscitato anche polemiche, vale a dire la sentenza con le condanne definitive, anche qui in Cassazione, per i poliziotti artefici della irruzione alla scuola Diaz, una polemica che si è accompagnata anche alle, che ci ha accompagnato per giorni durante la settimana, insomma un G8 con il quale l'Italia davvero non riesce a fare i conti definitivamente. Ne vogliamo parlare con Vittorio Agnoletto, che allora era portavoce del Genoa Social Forum. Buongiorno Agnoletto e benvenuto. Buongiorno a tutti. Saluto anche un senatore del Popolo della Libertà che però ha anche un lungo passato, un lungo trascorso in polizia, è presidente onorario anche oggi del SAP, cioè uno dei sindacati, il sindacato autonomo di polizia. È il senatore Filippo Saltamartini, buongiorno, benvenuto anche a lei, senatore. Grazie, buongiorno. Allora, Agnoletto, intanto le chiedo, secondo lei è stupito del fatto che siano fuggite queste due persone, condannate in via definitiva, hanno fatto bene? Ma guardi, io penso che il problema fondamentale sia dare un giudizio sulla sentenza. Una sentenza, quella di venerdì, abbastanza sconvolgente. Perché? Ma perché sono state date pene per reati riferiti a danneggiamento di cose, pene gravissime, cioè di 10, 12, 14 anni, mentre una settimana prima per atti che hanno messo a rischio la vita di intere di persone e atti gravissimi di violenza su persone, le sentenze sono state molto più miti. Quindi lei ne fa un paragone, dice le persone guarda, che hanno devastato una città, secondo, no, la, io credo, no, dico, secondo l'accusa hanno preso di più di persone che hanno invece colpito esseri umani. Questo sì, io credo che una giustizia per essere giusta debba prima di tutto rispettare una proporzionalità della pena. Se passa la logica che un atto che da parte mia non è assolutamente condivisibile, questo credo che sia chiaro, l'ho detto fin dal luglio del 2001, un atto tipo quello di rompere una vetrina, rompere un bancomat, portare via dei beni da un supermarket, eccetera, atti di questo tipo vengono giudicati quattro volte più gravi dell'attentato alla vita di una persona, oppure delle condanne che sono state date per la morte di Aldo Vandi, e beh, allora qui si cancellano dei principi base della Costituzione secondo la quale la vita umana è il bene più importante. Questo mi sembra un fatto incomprensibile, credo, per l'insieme della pubblica opinione. Ma però si possono mettere insieme, io capisco che il discorso in generale, lei faccia questo discorso, però mettere insieme reati diversi, vicende diverse, anche la vicenda di Aldo Vandi che anche noi abbiamo seguito, cioè è un fare un pupurri di cose che, no, che no, insieme no, no, però mi non scusi, stanno. No, mi scusi. Cioè ogni processo ha una sua storia, ecco, processuale. Ma possiamo limitarci anche alle vicende genovesi. Possiamo limitarci anche alle vicende genovesi. I poliziotti responsabili dell'assalto alla scuola Diaz, dove sono state ferite gravemente oltre 60 persone, alcune in fin di vita, hanno preso delle pene molto molto più basse, non faranno neanche un giorno in carcere e hanno colpito delle persone. A rischio ci sono delle vite umane. Quindi questo è un passaggio su cui io chiedo che si rifletta. Questa è una riflessione molto, molto interessante. Su questa però mi faccia fare... Che non ha nulla a che vedere con la giustificazione di atti che non ho mai assolutamente condiviso. Questo che da parte vostra mi debba essere riconosciuto, perché insomma... Questo lei l'ha sempre detto, l'ha ribadito anche oggi e ci mancherebbe. Però su questo io la seguo e vorrei chiedere al senatore Saltamartini un giudizio. Effettivamente un lettore che vede quello che è successo nel giro di una settimana vede che è vero due processi diversi, però fa specie pensare che persone della Polizia di Stato, tra l'altro accusate e condannate per avere anche fatto un'irruzione violenta e avere colpito degli esseri umani, siano state condannate a pene più miti rispetto a devastazione, saccheggi sbagliati, esecrabile tutto, ma nei confronti di cose, oggetti e che ne so, beni mobili, immobili. Che ne pensa, senatore Saltamartini? Dottor Milan, innanzitutto vorrei precisare che io non posso, ne rappresento più il sindacato di polizia, quindi questo sì, parlo certo, naturalmente come però come lo conosce insomma. Lo conosco perché ho vissuto, naturalmente sono uno dei fondatori di quell'organizzazione, ho vissuto i fatti di Genova. Allora partiamo da una prospettiva realistica, insomma, innanzitutto a Genova in quei giorni migliaia di persone hanno manifestato correttamente per un'idea che io peraltro condivido pure, insomma, no? L'inquinamento dell'ambiente, l'ingiustizia, la sottrazione di risorse medicinali ai popoli, e quindi fin qui nulla, nessun problema. C'erano dei movimenti, naturalmente tutte le ideologie, se non che all'interno di questo movimento si è inserito un gruppo di massimalisti che hanno incendiato una città con caschi, hanno incendiato, quindi non è affatto vero quello che dice il dottor Agnoletto. Io li avrei incriminati, e una minima cognizione del diritto ne ho, insomma penso di averne, essendo anche un docente universitario. Io li avrei incriminati per ben altri reati. Quali, per esempio? Associazione sovversiva, perché non era un semplice gesto di attacco, di incendio di autovetture, di banche, hanno tutti i danni che sono stati provocati. Chi li ha provocati? Le forze dell'ordine, che dovevano garantire lo svolgimento di un summit internazionale. Quindi già è stata blanda l'incriminazione di queste persone, blandissima. Però il raffronto tra le due sanzioni? Bene, Milan. Poi, dottor Milan, la sanzione 10 anni significa che se sconteranno 3 anni, con l'abbuono di altri 3 mesi, queste persone tra 3 anni saranno fuori. Quindi cominciamo a dire che la grandissima sanzione erogata è di 3 anni di reclusione per tutto quello che è successo. Perché, scusi, 3 anni? No, non ho capito. Cioè, se una 10 anni, 10 anni... Perché ogni anno c'è un abbuono di 90 giorni, sì. Quindi... arriviamo a 3 anni con 3 anni e 9 mesi, a 4 anni sono ammessi ai servizi sociali, alla semilibertà, quindi diciamo non si faranno molto di carcere. Diciamo che 3 anni è la sanzione vera che sconteranno. Dall'altra parte, invece, chi ha eseguito perquisizione e poi sono stati condannati per aver adulterato delle prove, non perché, come dice Agnoletto, hanno commesso, non ci sono imputazioni per la coscienza e volontà di ammazzare le persone e così via. Ecco, quelle persone sono state condannate naturalmente all'interdizione dei pubblici uffici. Abbiamo decapitato la più grande squadra operativa antimafia del nostro paese. In Italia la mafia non è la stessa cosa, erano delle persone incensurate. Quindi, se poniamo sul piano della bilancia della giustizia chi ha agito sbagliando per difendere lo Stato, per difendere nell'esercizio di una funzione legittima, insomma, e gli altri, non so da quale parte pende la bilancia, però lo voglio dire, guardate che noi pagheremo questo problema di aver decapitato il servizio centrale operativo, lo pagheremo in termini di conoscenza di un fenomeno gravissimo. Però Salta Martini, mi scusi, quello che abbiamo visto alla scuola Diaz adesso, al di là delle sentenze, io non ho letto tutti gli atti, quello che è stato appurato, la famosa macelleria messicana, eccetera, cioè quello c'è stato, c'è una sentenza di Cassazione, bisogna prenderne atto, e c'è. Effettivamente le persone non sono state identificate, cioè i poliziotti che sono intervenuti, perché c'è stata, secondo molti, anche per i PM omertà da parte della polizia, perché non si è detto esattamente chi era intervenuto. Cioè, vedere che per quel reato non ci sono punizioni molto, molto severe, cioè effettivamente nessuna farà un giorno in carcere, il carcere non si augura a nessuno, mentre dall'altra parte saranno 3 anni, saranno gli sconti, però si fanno dei giorni di carcere per uno che ha distrutto un bancomat, azione, ripeto, sbagliatissima, esecrabile. Secondo lei va tutto bene, cioè c'è una proporzione rispettata? No, Mira, dobbiamo metterci, diciamo così, d'accordo sulle conseguenze. Allora, quel ragazzo che è stato condannato, che aveva 13 anni, probabilmente è nell'ambito dell'empitus dei cattivi maestri e ha fatto quello che facevano gli altri. Quindi diciamo che è stato indotto da questa ondata, no, che voleva portare la rivoluzione, voleva impedire il summit internazionale. Quindi ci sono i cattivi maestri che hanno sbagliato, che io avrei punito appunto con imputazioni che sono previste nel nostro codice penale, ma che non è stato fatto. Nel caso dell'irruzione alla Diaz, io ho comandato reparti. Quando un reparto viene, diciamo così, dispiegato, dietro innanzitutto quelle divise ci sono anche dei ragazzi, cioè non ci sono dei Superman, probabilmente c'è stato l'abuso, e questo è un fatto su cui io ho, a mio tempo, quando rappresentavo la polizia, ho svolto delle severe critiche sull'addestramento, sulla formazione e così via. Ma è così da sempre: quando si usa la forza, quando il reparto viene portato alla carica, è sempre così, perché è impossibile immaginare che quando si entra con dei manganelli, con delle mezzi di coazione fisica, non ci siano, diciamo così, delle lesioni. Quello che è grave, a mio giudizio, in tutta questa vicenda è, diciamo così, il comportamento, l'omessa vigilanza quando hanno cercato di adulterare le prove. Sì, diciamo, sulla questione delle morte. Ecco, la cosa, diciamo così, brutta di questa vicenda è quella, la cosa più grave. Agnoletto, le piace questa? Cioè, immagino non condivida quasi nulla, diciamo, di questa spiegazione del senatore Saltamartini. Io ovviamente di quello che ha detto il senatore non condivido assolutamente nulla, ma mi permetta, è la realtà che non va d'accordo con quello che dice il senatore. Sarà un professore universitario, non lo discuto, ma ha detto delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Cominciamo dall'inizio, reazione di associazione sovversiva. Per esserci un reato di associazione bisogna dimostrare che queste 10 persone agivano in associazione fra di loro. Durante il processo è emerso... I cattivi maestri, non so no, che... No, non no, so no, quale, no, a mi scusi, mi scusi, ho ascoltato, dico senatore, ho ascoltato. Allora, durante il processo tutti quanti, pure i pubblici ministeri, hanno preso atto che queste persone non si conoscevano neanche tra di loro. Quindi il reato di associazione era impossibile. È stato dato, peraltro, il reato di devastazione e saccheggio, reato... presente nel codice Rocco fascista, che non è poi più stato utilizzato per decenni, perché la situazione di devastazione nasce in una situazione post-guerra, e da quello che nasce il reato, per le scorribande che venivano fatte dopo la guerra, dove le persone rubavano tutto quello che trovavano, eccetera, eccetera. Quindi la pena è comunque gravissima, non si venga a dire ne scontano tre. La pena, la differenza di pena, 14 anni, 12 anni per reati contro beni e 3 anni per reati contro persone, è una differenza abissale, ed è questo di cui stiamo discutendo. Paradossalmente, e non credo di forzare la realtà, se avessero dovuto applicare un reato di associazione sovversiva, l'avrebbero dovuto applicare a quegli oltre 200 poliziotti che questa volta sì, in rapporto tra di loro e con un unico comando verticale, perché la polizia è organizzata in modo verticale, con responsabilità precise. Cioè, l'ha applicata a loro. Hanno provocato l'assalto alla Diaz e hanno provocato quelle gravissimi feriti. La cosa gravissima è anche che grazie all'omertà, come ha detto il pubblico ministero Enrico Zucca, e alla non collaborazione dei vertici della polizia, non sono riusciti i magistrati a individuare i singoli che hanno commesso le violenze. E anche sui falsi, c'è un verbale firmato da 14 capi di polizia che affermano il falso, hanno individuato 13 firme, quei 13 non hanno detto di chi è la 14ª firma. Un'ultima considerazione, in Italia non è che se qualcuno si è comportato bene 20 anni prima poi può fare quello che vuole. Allora, che alcune delle persone condannate si fossero battute contro la mafia anni fa, non ha nulla a che vedere con la violenza terribile con un reato fatto in passato. Ecco, però mi si scusi, non si venga a dire che c'è stato un problema di legittima difesa, di gestione dell'ordine. No, sono state assalite 93 persone mentre dormivano, sono state ridotte in fin di vita, e quando i capisquadra erano in grado in ogni momento di interrompere quel massacro, anche perché il nucleo principale che ha assalito la scuola era in collegamento radio col responsabile che poteva interrompere in qualunque momento. Ci sono oltretutto i filmati dei vertici della polizia, gli eroi cosiddetti dell'antimafia, che nel cortile della scuola, io gli atti li ho letti tutti, decine di migliaia di pagine, mentre ancora è in atto l'assalto alla scuola, parlano fra di loro e tengono in mano il sacchetto con dentro le Molotov, che poi verrà messo dentro la scuola per accusare i ragazzi. Vedete che, ecco, la vicenda del G8 ha una, tra virgolette, pacificazione. Su questo non arriveremo mai, perché ognuno poi ha il modo di vedere le cose come sono andate, secondo una propria interpretazione. Poi ci sono anche le sentenze. Allora, vorrei sentire all'800 24 0024 Bruna da Milano, che ci ha chiamato. Bruna, buongiorno. Buongiorno, dottor Milan. Volevo dire al signor Agnoletto che forse è il caso che la finisca con questi discorsi, perché quello che è stato fatto a Genova è stata una cosa terribile, e quello che la polizia ha fatto troppo poco. Non mi deve contestare le condanne, eccetera, perché questi non sono assassini, ma sono delinquenti. che sono in giro. In che senso, guardi, Bruna, io la capisco sul fatto, si è fatto molto e lo stesso Agnoletto ha condannato le violenze, i saccheggi nei confronti della città. Che vuol dire però la polizia ha fatto anche troppo poco? Non mi piace tantissimo questa frase, cioè in che senso? Agnoletto non ha condannato nessuno, ha detto oh, mi dispiace. No, ha ribadito che quelle violenze nei confronti di Banco, ma l'ha ribadito anche oggi, adesso questo non si può, che sono azioni esecrabili, sbagliate. E da non fare, ecco, questo l'ha detto Bruna, non è che ha giustificato i saccheggi nei confronti di Genova. Ha detto che gli dispiace, che però sono stati danni verso cose, sì, e non persone. Poteva scappare morto, perché da Genova sono spariti tutti, e hanno fatto entrare questi delinquenti che dovrebbero andare a lavorare le miniere anziché essere sovvenzionati, perché sono sovvenzionati, mi credo, io ho quasi 70 anni, sì. Dottor Milan, l'ascolto sempre, è la prima volta che intervengo, ma davanti a queste cose mi vengono i fotoni. E vorrei dire ancora, dottor Agnoletto, se fosse successo a lui delle sue cose o qualcuno della sua famiglia, la polizia rischia la vita per questi disgraziati. Va bene. Piantiamola una volta per tutte, caro Agnoletto, che siamo in tanti a pensarla così. Grazie Bruna, tra poco poi Agnoletto risponderà. Vorrei andare a Bari da Michele. Michele da Bari, buongiorno. Michele, ci sente? No. Mi sente? Io la sento, sì, perfettamente. Dica Michele. Io brevemente un commento sulle due sentenze. Innanzitutto volevo dire che per quanto riguarda la sentenza sull'operato della polizia, a me mi sembra invece che sia una sentenza abbastanza dura e pesante, che comunque in questo momento ci lascia un po' sguarniti su dei punti importanti di tutela del sistema paese. Quindi mi sembra che si sia fatto un passo anche molto forte nel voler andare comunque a praticamente decapitare i vertici di organismi, sì, importanti. Non mi sembra che si sia... Quello che dice Agnoletto non è dura, e le critiche perché non faranno un giorno di galera, cioè nel senso rispetto ai 15 anni, per esempio, le persone condannate per le devastazioni, questi sono 4 anni, 5 anni, 3 anni. Guardi, io sono un manager e penso che essere privati della propria attività, che uno fa con passione, sia una condanna molto ma molto importante. Se dovesse essere privato della mia attività manageriale, per me sarebbe una cosa devastante, quindi ognuno valuta come meglio crede. Io da cittadino valuto il danno che penso che abbiamo come sistema paese dall'assenza operativa di queste figure comunque molto qualificate. Per quanto riguarda invece le condanne, insomma, chi ha operato a Genova, sì, io sono, diciamo, dello stesso avviso della signora. C'è stata devastata una città. Io non comprendo come, quando della gente, spesso io reputo anch'io dei delinquenti, va a una manifestazione con le Molotov, con i caschi, con gli scudi, quindi col chiaro intendimento di non solo abbattere magari qualche vetrina, ma di andare allo scontro fisico, possa essere giustificata. Per me è una cosa assolutamente inconcepibile. Allora, diciamo, chiariamo una cosa: giustificata, cioè togliamocelo dalla mente, qua nessuno l'ha giustificato. Devo dire, senatore Saltamartini, su questo va dato atto a Agnoletto, cioè non ha mai giustificato le violenze nei confronti della città. Cioè nessuno ha mai giustificato queste cose. Si può contestare una sentenza oppure no, ecco, ma giustificare... Milan, scusi. Il diritto di manifestare deve essere fatto pacificamente, certo, senza armi. Certo. Lì gli organizzatori, se lei domani mattina vuole organizzare un corteo, una manifestazione, lei deve dire chi partecipa, in che forma, e così assume la responsabilità di organizzare un evento del genere. Ma quindi lei, quando faceva riferimento ai cosiddetti cattivi maestri, a chi si riferiva? Ha dei nomi in mente? Certo, i vertici, chi ha organizzato questa manifestazione? Ma chi? Agnoletto anche, allora. Voglio dire, ma scusi, organizzare una manifestazione in cui innanzitutto è scappato un morto, e sappiamo come si chiamava, il carabiniere che hanno assalito delle jeep, cioè lì si è usata della violenza in modo eversivo, questa è la verità. In nessun paese del mondo, voglio dire, si può tollerare che chi va a manifestare ci va con casche, è un reato. È stato condannato qualcuno con delle barriere, hanno incendiato cassonetti, come si può immaginare no, ma che un paese, sì, democratico possa tollerare? Ma lei questo sta dicendo, cioè mi sta dicendo, secondo il suo parere, che o Vittorio Agnoletto lo identifica come uno degli organizzatori o dei cattivi maestri di quella, allora, di quella Vittorio vicenda? Vittorio Agnoletto, io lo ritengo, che voglio dire, non condivido le sue idee, non abbia, diciamo così, velleità violente, nel senso che lo ritengo una persona democratica e pacifica, però la realtà qual è? Il risultato qual è stato? Che questi giovani, dietro uno slogan giusto o comunque condivisibile abbia portato queste persone ad andare a Genova con bastoni, con caschi, erano tutti travisati. Non, lei ha visto i filmati? Chiunque. Come no? Vede... Beh, certo, ecco, sono voglio immagini... dire, non c'è una persona a volto scoperto. E quindi come si può immaginare che si possa tollerare in una democrazia avanzata come la nostra una violenza di questo genere già dal presupposto di partire in queste condizioni? Chi va in una manifestazione col volto coperto commette un reato. Quindi tutte quelle persone che si comportavano senza compiere atti violenti commettevano dei reati, non è stato processato nessuno. Quindi io credo, e finisco, credo che siccome io ho vissuto gli anni del terrorismo a Milan, io ho vissuto gli anni del terrorismo da solo, da ragazzo, ci sparavano dietro le spalle, ho partecipato a 32 funerali. Non si può immaginare di giustificare le condanne e la polizia in questi termini. Ne siamo usciti con il grande sacrificio di troppi miei colleghi magistrati ammazzati. Questa è la realtà. Quindi le manifestazioni su questi temi vanno fatte da chi le organizza in modo da assicurare un senso pacifico della manifestazione. No, questo è interessante. Agnoletto, lei sente in qualche modo l'accusa come uno dei responsabili? Poi c'erano tanti movimenti, lei era il portavoce di non avere fatto abbastanza. Anche lo stesso Di Pietro vi ha chiesto in un'intervista a cui lei ha voluto replicare sul manifesto, a dire chiedete scusa anche voi, cioè pensare adesso che la scuola Diaz e il G8 sia l'emblema, la macelleria messicana del G8 è un errore. Cioè i movimenti cosa hanno fatto? Voi cosa avete fatto per preservare, per prevenire che queste persone devastassero la città? Guardi, il movimento era organizzato con il Genoa Social Forum, al quale derivano oltre 1600 gruppi e associazioni, dai missionari comboniani fino ai centri sociali, a gruppi scout, a Lilliput, al gruppo Abele, quindi era una varietà di associazioni. E di tutti questi non c'è atto violento a cui che possa essere contestato a tutte queste persone. E così infatti è stato. Il comportamento di tutte queste realtà è stato un comportamento assolutamente pacifico, non violento e a volte sempre assolutamente scoperto. Vi sono stati alcuni gruppi esterni al Genoa Social Forum, organizzati come Black Bloc, che hanno provocato quelle assalti di cui poi si è discusso per tanto tempo e che vedevano in me e nel Genoa Social Forum un avversario. E questo senatore lo sa benissimo, io ricevetti lettere pesantissime proprio in quei giorni e minacce dei gruppi che sfasciavano la città, che accusavano il sottoscritto di voler frenare la forza del movimento. Quindi quei gruppi con noi non hanno avuto mai nulla a che vedere, mi hanno sempre considerato un avversario. Questo è assolutamente documentato. Detto questo, qui non stiamo difendendo chi ha sfasciato una vetrina o rotto un bancomat. Questo è da condannare sempre, comunque chiunque lo faccia. Stiamo parlando di una pena spropositata rispetto a chi ha assalito delle persone. Questo è il punto. Ripeto, la giustizia per essere giusta deve rispettare una proporzionalità delle pene. Ha sentito che molte persone non la pensano così, di alcuni che ci hanno chiamato, ci mandano i messaggi a dire in realtà, voglio dire, non si possono neanche paragonare un poliziotto, uno che è lì per tutelare l'ordine, con una persona che va lì con l'intento di devastare. No, mi scusi, ma quei poliziotti che dovevano tutelare l'ordine e che quindi hanno una responsabilità molto importante perché devono tutelare i diritti di tutti quanti, e che incontrano per strada Mark Howell, un giornalista inglese assolutamente pacifico, che lo assaltano, lo massacrano di botte, si arriva al tentato omicidio. Nella notte Mark viene considerato morto dall'ospedale. Sì, ma infatti su questo il PM Zucca ha detto hanno sbagliato e per questo sono stati puniti dalla Cassazione. Per questo non sono stati puniti, perché coloro che hanno massacrato di botte non sono stati identificati. Ma ci sarebbe stata la scuola Diaz senza le saccheggi e le devastazioni dei giorni prima? Ma la scuola Diaz non c'entra nulla con la devastazione, guardi, c'è il vice capo della polizia Andreassi. Era in quei giorni lì, voglio dire, non è che oggi la polizia entra in una scuola di Milano qualsiasi e massacra le persone. Scusi, così. Se scontra 100.000 persone in piazza, dei gruppi commettono delle violenze, lei che cosa fa? Organizza una spedizione punitiva contro una scuola dove altre 93 persone dormono che non c'entrano nulla con le violenze commesse. Ma infatti è stato sbagliato e c'è stata una sentenza della Cassazione. Com'è possibile che ai vertici di quell'operazione vi siano dirigenti di polizia a livello nazionale, è questo che ha sconvolto i pubblici ministeri. Vede, a quei ascoltatori che dicono si è decapitata la polizia, io vorrei chiedere, ma voi trovate giusto che ai vertici della polizia, che deve tutelare i diritti dei cittadini e far rispettare la legge, vi siano persone che sono state coinvolte con ruoli di responsabilità nella costruzione di prove false? Che fiducia si può avere in una polizia che agisce in quel modo? E aggiungo una cosa che su cui vorrei sentire anche il parere degli ascoltatori, ma devo chiudere su interlocutore. Beh, guardi, il numero due della polizia, Ansoino Andreassi, vice capo della polizia vicario, che ha collaborato coi giudici, ha detto esattamente le cose che sto dicendo io. Beh, è l'unico che non ha fatto carriera nella polizia. Non ha detto, non è stato promosso, ha detto la verità, non è stato condannato, si è rifiutato di partecipare alla spedizione punitiva contro la scuola Diaz. Ecco, io penso e ho fiducia in una polizia di questo tipo, che ritiene di applicare la legge, non di fare le spedizioni punitive. Va bene, ci dobbiamo fermare qui però. Io vi ringrazio, come sapete, come vedete, insomma, non c'è, diciamo, pacificazione, se vogliamo, su questo tema. C'è chi rilancia l'idea di una commissione d'inchiesta, lo ha fatto anche ieri, credo, Sergio Cofferati. In ogni caso, staremo a vedere se il tema ci sarà ancora. Ringrazio Filippo Saltamartini, senatore del Popolo della Libertà, e Vittorio Agnoletto. Trovateci su Twitter @AlinoMilan @24Mattino. A domani.